get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, buonasera, benvenute, pensate alla 156esima trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17, ma noi andiamo in onda dalle 21 alle 22 sugli 87-900 MHz Radio Onda Rossa. Oh. Buonasera a tutte, chi volesse collegarsi sul sito internet può farlo, va alla nostra pagina che è www.clrbp.it, clicca sulla radio, clicca su in diretta ed è sintonizzata appunto su Radio Onda Rossa. Stasera siamo io, Annalisa e Tania. Ciao a tutte e tutti. Consideratevi fortunati che vi ha salutato, perché stasera è un po' di rode. No. No, anzi, siamo contentissime perché abbiamo tre ospiti, avete capito benissimo, tre ospiti bellissime che vado a presentarvi, sono tre delle autrici del libro Accendimi di desiderio, raccolta di racconti erotici lesbici, avete capito bene, edito da Zoe. Stasera in studio abbiamo appunto Vania Bennett, Clessidra e Nora Lussi. Eccole. Allora, se avete domande, commenti, altro sul libro oppure curiosità da rivolgere alle autrici, potete chiamarci in diretta qui in trasmissione allo 06 491750 oppure per le più timide potete mandarci un sms al 338 4146 682. Ma intanto cominciamo con la musica. Eccoci, allora ripartiamo. Io e Tania, come forse qualcuno di voi già sa, ci ha ascoltato in una trasmissione, era estate, faceva caldo, abbiamo già affrontato l'argomento dell'erotismo e della sessualità lesbica e abbiamo più volte sottolineato come nella cultura etero dominante, ahimè, questo argomento venga taciuto, ignorato, mistificato o ancora trattato come patologia. sì, in occasione di quella trasmissione ci eravamo poste il problema in quanto lesbiche del nostro immaginario erotico. Sì, perché i desideri erotici che ci muovono nella sessualità sono collegati a un immaginario erotico interiorizzato e questi desideri non sono puro istinto, come spesso tendiamo a interpretare, ma sono costruzione e sono frutto delle nostre esperienze, anche di quelle indirette, come film, libri, riviste. Siamo lesbiche in una società eterodominante, quindi i nostri desideri erotici sono inevitabilmente contaminati dal pensiero e dall'erotismo dominanti, che spesso non ci appartengono. Anche attraverso il libro mi sono soffermata sul tema della penetrazione. Non voglio porre al centro della sessualità lesbica la penetrazione e ridurla a questa pratica, ma è un tema che trovo particolarmente chiarificatorio rispetto all'immaginario erotico lesbico e ai suoi condizionamenti esterni. Penso che spesso noi lesbiche viviamo il desiderio di penetrare la nostra compagna o il desiderio di essere penetrate con un forte senso di colpa, perché il nostro immaginario ci porta al rapporto tra uomo e donna e quindi a una penetrazione fatta con il pene. Questo ci porta più o meno consciamente a desiderare di avere un pene e in quanto lesbiche di certo non ci fa piacere. Da una parte penso che immaginare tutto ciò sia normale, perché siamo cresciute circondate esclusivamente da immagini erotiche etero e trovo coraggiosa anche l'onestà, anche per esempio in alcuni punti del libro delle autrici che ammettono questo desiderio e in qualche modo cercano anche di viverselo positivamente. Però non sono d'accordo. Penso che una lesbica cresciuta inevitabilmente in una società etero debba anche altrettanto inevitabilmente fare un lavoro su di sé di decostruzione e ricostruzione del proprio immaginario erotico, per arrivare a non associare le dita della compagna o un dildo a un pene, ma provare piacere per le dita o il dildo in quanto tali. E comunque per fare questo percorso ovviamente l'unico modo è fare molta pratica e anche la lettura di libri erotici. Anche la lettura dei libri erotici fa parte di questa pratica. Allora, per chi volesse fare pratica, vi do il cellulare di Tania. No, scherzo. Allora, vi ricordo che... infatti, allora, abbiamo accolto con grandissimo entusiasmo uno dei pochissimi libri che contiene appunto racconti erotici lesbici, scritto da donne lesbiche, rivolto a donne lesbiche. E cosa più importante, non è un libro tradotto, ma fatto in Italia da coraggiose donne italiane. E quindi la prima domanda, vi ricordiamo tra l'altro che l'abbiamo presentato lo scorso 3 dicembre in una sala stracolma di donne, anzi erano tutte molto molto felici di ascoltare racconti erotici e appunto poi tra l'altro in questi racconti l'unico denominatore, diciamo c'è un unico denominatore anche se sono molto diversi tra loro, che è il desiderio lesbico visto dalle donne, in cui si parla liberamente di fantasia, di corpi che si esplorano, di sesso in modo libero, riappropriandosi di termini come, diciamolo, figa, seno tutta il femminile, vabbè, clitoride, penetrazione, succhiare, baciare, scopare, venire, che di solito sono termini usati diciamo al maschile, invece qui sono solo per il nostro piacere e non come un mezzo per il piacere appunto maschile. Io vi ricordo che in trasmissione non siamo solo noi due, le pallosissime Anna Risettania, ma c'è anche Vania Bennett, Clessidre e Norra Lussi, autrice di questo libro. E la prima domanda che voglio fare, non so chi mi vuole rispondere, è come è nato questo progetto bellissimo trasformato in libro, Accendimi di desiderio, e come avete fatto per farvi pubblicare soprattutto? Rita dalla mente perversa di Vania Bennett. Speriamo col perverso. Che appunto ho avuto questa idea di scrivere una serie di racconti erotici lesbici. Chiaramente non poteva scriverli da sola tutti. Inizialmente ne avevamo proposto. Non perché le mancasse fantasia. No, ma perché poi alla fine, sì, oddio, guarda, dopo un po' non c'è più che scrivere. Perfetto. E quindi da buon segno dei pesci sia io che Norra Lussi, la fantasia non ci manca, proprio ne abbiamo tantissima. E quindi ha fatto una serie di telefonate alle amiche che sapeva scriveva, no? Esatto. E ci ha proposto di scrivere dei racconti erotici, quindi ognuna di noi ne ha scritti alcuni, io personalmente ne ho scritti due. Mm-hmm. E perché racconti erotici? Per un motivo, forse, vabbè, Vania già scrive da anni, sì. Anche pubblicato Col dito e la luna. Le donne che ballano, diciamo che ballano il tic-tac, sì. Carinissimo. Diciamo che è molto difficile essere pubblicato in Italia, mm-hmm. Quindi forse voleva anche essere un modo per incuriosire l'editore e avere più possibilità di essere pubblicati. Uh-huh. A parte il fatto che poi ci siamo divertiti a scrivere questi racconti erotici. Ma poi era anche un fatto proprio di sentire la necessità di scrivere proprio dei racconti erotici, finalmente, scritti da autrici italiane. Esatto. Perché tutti gli altri più o meno erano sempre traduzioni di, mm-hmm, o inglesi, americane, sì, eccetera. Sì. E quindi finalmente una volta autrici italiane che parlavano di ambienti proprio... Questo c'è stato uno spostamento di microfono, di ambiente in cui vivono. Perfetto. Benissimo. Allora, ridiamo il cellulare, Tania? Lo sai a memoria? Ragazze, svegliatevi, fate domande, commenti, noi siamo qui in trasmissione, 338-4146-682. E io vi dico molto brevemente il primo racconto, che è proprio scritto da Vania Bennett, Le tue labbra rosse di ketchup. E questo è il primo racconto che parla di un rocambolesco festeggiamento di un 15° anniversario di una coppia lesbica consumata dallo stress del lavoro, dagli impegni. Però non servono ostriche e champagne per riaccendere il desiderio, ma basta un hamburger, delle patatine e il ketchup passato sulle labbra in modo opportuno. E per questo vi leggo il brano poi che appunto potete leggere nel bel mezzo di questo racconto, grazie per il trillino se era a noi. Quando appunto c'è proprio la scena del ketchup e delle patatine e di Alice che si spoglia. Sorrisi e mi avvicinai ancora di più a lei. Fu allora che Alice, con un gesto da consumata spogliarellista, si tolse la giacca del pigiama e intingendo una delle patatine nel ciotolino del ketchup se la passò sulle labbra, trasformandole in due eccitatissimi petali rosso fuoco che si avvicinarono a me implorando i miei baci. La sua lingua leccò via voluttuosamente tutta la salsa e protendendosi verso la mia bocca aspettò di esservi risucchiata. Fu un attimo e subito in sequenza una sequenza di laceranti sensazioni calde ed eccitanti avvolse i nostri corpi. La trascinai sul tappeto e cominciai a far scorrere la mia lingua sui suoi capezzoli appuntiti. Scosse da violenti sussulti, cominciammo ad avanzare insieme verso il piacere. Le sue dita ruotarono intorno al mio pube, creando abili virtuosismi, e si insinuarono piano tra gli accessi più remoti del mio fuoco. Alice, le pupille dilatate per l'eccitazione, mi sussurrò sollevandosi sui gomiti. Amore, voglio guardare le tue dita che scompaiono dentro di me. Ecco, qua ci vorrebbe il brano musicale perché fa caldo. Forse è meglio. Ecco, sì. Allora, Vane, no, una domanda proprio... Mi ha colpito di questo racconto che si parla appunto di coppie lesbiche che durano anni e anni e anni. E in cui appunto il desiderio può essere mantenuto, sembrerebbe ad alti livelli, basterebbe ketchup, patatine, cose abbastanza economiche. Allora, quanto c'è di vero in quello che sei tu, nella tua esperienza, delle tue amiche? Nel senso che io l'ho visto molto come appunto una speranza, perché si sa che le coppie lesbiche durano ben poco, no? Diciamo che di vero c'è un 50%. Io ho conosciuto coppie lesbiche che stavano insieme anche da 18 anni. Mm-hmm. Certo, la speranza che questo sia possibile c'è sempre, no? Quindi sì. In una storia, quando inizia una storia, tu speri sempre che duri in eterno. Però poi magari se il desiderio cala, può darsi che anche il ketchup, la patatina, tutto può servire. Soprattutto la patatina? Soprattutto no, la patatina. No, vabbè, una battuta. Veramente ragione, soprattutto la patatina. Se manca quella è un problema. Andiamo alla musica, sì, ok. Allora, per voi, Alicia Keys? Falling. Falling. Someone innanzitutto ringraziamo Gio per il messaggino che in cui ci dice: bingo, beccate, siete in diretta? Sì, siamo in diretta. Sto facendo una scorpacciata di letteratura lesbica, dice lei. Ho letto il libro Blackout ed è veramente visionario, mi piace. Lo strip poker è stupendo, quando sono triste ci penso e mi ammazzo dalle risate. Besos, grazie Gio. E poi aggiunge: anche per me viva la patata, candidiamoci alle elezioni. Simpaticissimo. Allora, ma veniamo anche al terzo racconto. Cioè, non si è sentito niente di quello che ho detto finora? Ah, ok, va bene. Ma veniamo al terzo racconto. Blackout di Vania Bennett e Nora Lussi. Probabilmente un probabile capodanno, passato con le solite amiche, dove un blackout improvviso fa diventare quella serata un'indimenticabile serata, con una sconosciuta che appare approfittando del buio per vivere un momento di trasgressione con una delle protagoniste. E non so chi vuole rispondere, comunque abbiamo pensato... La domanda. Sì. Abbiamo pensato con Annalisa che è noto che i gay utilizzano spesso le dark room o le saune in cui hanno rapporti occasionali con sconosciuti, mentre invece che noi sappiamo non esistono dark room per donne. È un atteggiamento, secondo voi, è una conseguenza dell'atteggiamento sociale o è effettivamente che non ci appartengono queste modalità a noi donne o le lesbiche? Secondo voi? Ma guarda, io penso che il fatto che ci appartenga ben poco. Cioè la dark room, io non ho mai sentito di lesbiche che sono andate in una dark room o che hanno frequentato una dark room. Poi però può essere, Sì, infatti io sono Nora e volevo dire che il racconto è stato scritto anche sull'esperienza non mia personale ma di conoscenti, di amiche, di mie compagne del tempo. E so che esistevano a Roma delle dark room, specialmente in locali misti di gay, sì. C'erano delle stanze apposta per lesbiche, quindi diciamo che sulla esperienza loro soprattutto che mi sono basata per il racconto. Quindi... Poi nel racconto è una dark room molto privata, eh? Sì, nel racconto è una stanza in un appartamento, quindi... Mentre salutiamo Luisa Dura che ci ha mandato i suoi baci pure a te Luisa, grazie per ascoltarci. Veniamo al quinto racconto, che è appunto lo strip poker tanto amato da Giù, che è di Vania ancora e di Onia K, che non è qui in trasmissione mentre no, Vania si saluta. Ah, vedi, saluti a lei. Dove tre lesbiche di mezza età organizzano la solita seratina di poker che si trasforma in uno strip poker appena subentra la quarta giocatrice, che è giovane, carina e provocante, che approfitterà appunto della situazione per eccitare tutte e tre ed essere l'unico oggetto del desiderio. Allora, la domanda che ci è venuta in mente a me, Tania, è che in questo racconto abbiamo visto un po' di atteggiamenti paragonabili a classiche fantasie che sono anche dei maschi, come sappiamo, perché vorrebbero sempre le donne vogliose, disponibili. E così nel racconto la ragazza viene vista un po' come una porcellina, a un certo punto viene definita, che vuole provocare e godere con più donne possibili. Allora, quello che ti chiedo, Vania, è un modo per riappropriarsi di questa fantasia e farla nostra, o è una fantasia che è vista dagli occhi della ragazza, che poi vi leggo alla fine, è tutta sua la fantasia in realtà, che vuole essere al centro del desiderio delle tre donne? E soprattutto, chi sono le tre fortunate? Questo non te lo posso dire, ma io non c'ero comunque. Ah no, perché siete giuste tre, quindi... Ah, cioè, purtroppo, ma io non c'ero. Comunque. Ma pensavo che eri la giovane tu, veramente. Peccato. Dunque, sicuramente è una fantasia della ragazza giovane, questo sicuro. Però chi non vorrebbe partecipare a uno strip poker dove arriva una sconosciuta, giovane, bella, seducente, che comincia subito a fare delle avance a queste quattro signore che non vedono l'ora di trovarsi di fronte a un qualcosa di molto eccitante che non sia il solito strip poker di tutte le settimane? È vero, chi è che non vorrebbe? E vi leggerei a questo punto la parte finale del racconto, a meno che non la voglia leggere Vania, che io mi emoziono. No, leggilo te. Un po' mi emoziono, un po' diciamolo, mi eccito pure. No, la tua voce va benissimo. Va bene, sì. Allora, la ragazza quindi ha fatto lei in realtà questa fantasia, la giovincella. Qui c'è un po' di autobiografia forse, Tania. Sì? Ti senti un po' rappresentata da questo racconto? Sei la più giovane di tutte noi, se non altro. Aveva trascorso quasi tutta la notte a toccarsi. Una folle notte di sesso solitario, di volti di donne sconosciute che avevano fatto esplodere il suo corpo in decine di orgasmi. Rebecca, Eva, Linda, ma chi erano? Le avrebbe mai conosciute tre donne così passionali e affascinanti? Girò la testa sopra il cuscino e fece scivolare ancora la sua mano fra le gambe. Un ultimo ardente sussulto e di nuovo si ritrovò stordita sotto il lenzuolo pregno dell'odore del suo sesso. Ed è bellissimo soprattutto questo racconto, secondo me, perché parla di masturbazione femminile che di solito viene taciuta o comunque no, non rappresentata. Sì. Tu che esperienza? No. Ma tu che ne pensi? Sì, che io, che devo dire? Io gioco a burraco ancora, cioè al poker non sono scarsolida, però sì, è stato molto bello, mi ha preso, soprattutto il finale. Beh, questa è la cosa. Ormai non posso più essere in età di essere giovane. Ah, mando la musica, che te ne ha fretta di andare. Abbiamo tre messaggi. Giorgia ci scrive: libro piacevole ed eccitante, non solo nel senso più comune del termine, eccita la fantasia. Complimenti, in particolare a Clessidra, prof delle favole, Giorgia. Grazie Giorgia. E poi c'è Gio che ci scrive: no dark, dark room, squallida e pericolosa, senza offesa, dark privata ci piace. Credo che la poker sia ironica sia per le tre sia per la ragazza. No Vania? Kiss. D'accordissimo Gio. E poi c'è anche la nostra cara Kate, che ci scrive: sono in coppia da 13 anni con la stessa donna e soltanto a volte è necessaria la maionese, la mostarda o simili. Viva la patata sempre! Ciao Kate! Veniamo al sesto racconto, la moglie di Clessidra appunto. È un racconto in cui una donna, sempre stata etero, racconta dettagliatamente ad un amico l'incontro inaspettatamente appassionante con la moglie del suo amante uomo. E vi leggo un pezzo. Sono andata alla bellissima finestra che dava sul mare e lei è arrivata subito, dietro di me. Ha cominciato a baciarmi il collo e la schiena. Io avevo gli occhi chiusi e la pelle d'oca. Le mani mi accarezzavano il seno, prima sulla maglietta, poi sono scivolate sotto sollevandomi il reggiseno. Mi stringeva i capezzoli con forza, mentre sentivo la sua lingua sul collo, nell'orecchio, in bocca. Io ero già partita, in estasi, e le ho detto, fammi tutto quello che vuoi, scopami, cosa vuoi farmi? Lei mi ha detto, voglio assaggiare la tua fica. Così mi ha fatto appoggiare con le braccia sul davanzale della finestra. Ha piegato il mio corpo, si è messa in ginocchio dietro di me, mi ha sfilato le mutandine e ha sollevato la gonna. Ancora non mi aveva toccato e stavo già venendo solo all'idea. Mi ha fatto aspettare, rendendo l'attesa ancora più eccitante. Mi ha aperto la fica con le dita, delicatamente. Poi mi ha detto che era bella, profumata, che la voleva, che voleva affondare la sua lingua lì dentro, che voleva farmi godere come non ci aveva mai riuscito nessuno prima di lei. Brava. Domanda. È scelto proprio la parte più piccante. Tania si è un po' arrossata. dove stavo? Mi sono persa. Il racconto ci è piaciuto, ovviamente, ma durante il racconto per tre volte l'amico a cui lei parla e racconta la sua esperienza, interviene tre volte con frasi del tipo «Tesoro, me lo stai facendo venire duro, sul serio, tra un po' urlo anch'io». Credo che questa figura tu l'abbia inserita per accentuare l'erotismo del racconto. Perché inserire la sessualità maschile in questo racconto lesbico? Non sarebbe stato meglio se l'interlocutrice fosse stata un'amica che si bagnava, per esempio? Ma io non so perché mi è venuto un uomo proprio spontaneamente, non ci ho proprio pensato a mettere una donna. Ma forse per staccare, tutte donne, cioè immaginavo che anche nei racconti delle altre ci fossero solo donne. E quindi ho inserito l'amico maschio, forse per staccare. E poi perché no? Cioè, poi voglio dire, d'altra parte non è... in genere si dice che l'idea di due donne che fanno l'amore serve a uso e consumo per gli uomini, no? Per farli eccitare, no? Come nei film, eccetera, eccetera. Qui il poveraccio, insomma, non sapeva neanche, cioè, si è trovato casualmente in questa situazione, non sapeva a cosa stava andando incontro, no? Quindi, vabbè, poi si è eccitato e comunque sì, l'ho inserito per accrescere l'erotismo del racconto, sicuramente. Veniamo all'ultimo racconto, che è Due in fuga, di Vania e Nora, ed è la storia di due donne che si amano follemente, con grande passione, ma che non hanno la forza di vivere fino in fondo il loro amore, costrette l'una da una famiglia che lavora a tutti i costi etero, quando ti sposi, e l'altra invece da un marito... Perché la famiglia è napoletana. Esatto, sì, che me l'immagino già mia mamma. Sì, è del sud. Vedi? E l'altra da un marito e una figlia a cui non riesce a rinunciarci. Un viaggio però a Londra e l'incontro provvidenziale con due donne che usano la parola lesbica senza alcun problema darà loro la forza di una nuova vita. La mia domanda è: quante donne sposate o etero che vivono una doppia vita, vivendo probabilmente una volta a settimana come le due protagoniste, quando con una scusa riescono a scappare tra le braccia della donna che amano, quante ne conosci? Tantissime. Vania? Tante, tante, Nora? Tante. Infatti, eccetto noi cinque, penso. No, sì. Quante riescono poi? Ecco, che riescono poi a veramente ad avere il coraggio di dare un taglionetto alla propria vita, forse molto meno. Mm-hmm. Però che donne sposate tantissime, che hanno queste fantasie o che vivono storie veramente con altre donne. Mm. E le due donne, tra l'altro, a Londra comprano un dildo e dopo essersi divertite lo gettano, perché le loro mani, le loro bocche, le loro instancabili lingue erano di gran lunga migliori, così dicono le due protagoniste. E voi pensate che le mani, le lingue siano migliori del dildo? C'è qualcosa nel gettare il dildo per voi che voleva un messaggio da dire? È sicuramente un messaggio che volevamo mandare, perché l'esperienza è stata bella, divertente, positiva per entrambe le protagoniste, però è finita proprio perché non è più utile, non serve più, il loro amore è sufficiente al loro bisogno, insomma, il fatto di stare insieme e essere felici così come sono, quindi è proprio un feticcio che non serve più. Mm-hmm. Quindi è stato volutamente gettato. Ah, poi al limite lo ricompreranno. Esatto. Anche se in Italia è molto il più si getta. Tania, cioè, mica si trova facilmente a Roma. A Roma hanno chiuso tutti i porno shop. A noi si è girato giorni. Perché tu me l'hai detto che hanno chiuso. È pieno, pieno. Attenzione, è pieno di porno shop Roma. Vedi, io sono andata fino a Copenaghen a comprarlo. C'è neanche uno a Via Cavour. Vedi? Allora, andate via Cavour. San Camillo, di fronte al San Camillo. Di fronte all'ospedale, così se avete problemi. Soccorso. Infatti. Allora, quando... C'è intanto un messaggino, quindi questa è la pubblicità. Sì. By Wop Topic. Ci chiede di nuovo qual è il titolo del libro e da chi è edito. Quindi non è stata attenta la ragazza. Oppure si, vabbè. Insomma, come si chiama? Accendimi il desiderio. Wop Topic. Ah, Wop Topic. Okay. Il libro è Accendimi il desiderio, edito da Zoe. Prezzo? 9,30 euro. Cioè 9,30 euro, capito? Cioè che costa 9,30 euro oggi? Niente. Niente, no. Veramente. Solo al McDonald's è di meno, ma noi non ci andiamo. Se c'è qualcuno che vuole pagare in natura. Ah, esatto, al posto di 9,30 euro cosa vuoi volere? Un bacetto? Un strip poker a casa di Clessidra. Allora ragazze, vi ricordiamo che siete all'ascolto della 156esima trasmissione, noi siamo in diretta, direttissima con Vania, Nora e Clessidra, autrici del libro, alcune delle autrici del libro Accendimi il desiderio, e la domanda finale che volevamo fare, piena di speranza, è quando esce la prossima edizione, se già state scrivendo nuovi racconti. Sì. Possiamo invitare le ascoltatrici se hanno idee pure, magari. Perché no? Eh? Perché no? Mandateci le vostre fantasie. Ci sono le nostre email, l'ultima pagina del... Le diamo magari, se vi va. Se hai scritto qualcosa di pazzesco ce lo mandate. Come minimo si compra il libro. Poi se hanno scritto qualcosa di favoloso ce lo possono inviare alla nostra... Certo, perché no? Sì. In genere le autrici vogliono provare prima di scrivere, no? Quello sempre. Comunque, senti, volevo dire che ci facciamo un po' di pubblicità, se permetti. Sì. Volevo dire che l'ultima domenica di febbraio, che mi sembra sia il 28, al Goa, serata verso le donne al Goa, ci sarà un banchetto con la vendita del libro, sarà pubblicizzato il nostro libro anche sul biglietto del Goa, ci sarà il logo del libro, quindi sarà una serata Accendimi di desiderio. Che il bello. 28 febbraio al Goa, chi vuole intervenire? Noi ci saremo, assolutamente. Ci sicuro. Siamo anche noi. Anche perché volevamo andare al Goa anche la scorsa domenica, non avevamo motivo poi per andarci. Invece adesso ci abbiamo motivo per andarci, ecco. Allora, va bene, io direi mandiamo un brano e poi altre chiacchiere, se avete altre domande continuate a scriverci, a telefonarci se vi va, le più temerarie, magari. Sì, fateci qualche domanda piccante, insomma. times I whisper. Ringraziamo, i messaggini ci sono arrivati, ci sono Laura e Melania che ci scrivono: salve, viva la sessualità lesbica, la nostra visibilità dentro questa eterosessualità tiranna, bel libro, baci a tutte voi. E poi ci scrive anche Gio: ma però, come si diceva a scuola, perché il dildo deve essere così simile al pene, vero? Non ha senso, non ho bisogno di un C puntini puntini per stare bene con la mia ragazza. Gio, comunque nessuno lo mette in dubbio. E comunque, vabbè, ovviamente i dildo adesso li fanno anche non per forza a forma di cazzo, insomma, quindi... Lei è molto esplicita. E poi invece ci scrive Tura, siccome dice: mi raccomando, favoriamo la diffusione del libro anche qui a Catania, perché lei ci sente dalla Sicilia, da Catania. Sì, senti, possiamo dire che a Roma il libro l'abbiamo già presentato 3 volte ormai, adesso penso non ce ne siano più. Però la prossima presentazione è a Firenze, quindi per chi ci stesse ascoltando da Firenze, il 18 marzo alle 21, però io non ricordo dove, Vania, dove? All'Arci Lesbica via Pisana. All'Arci Lesbica in via Pisana, il 18 marzo alle 21. E poi ci dicono anche le autrici che se voi organizzate a Catania un posto dove le invitate a presentare il libro, loro verrebbero. Sicuramente. Quindi, sì, sì. Adesso diamo gli appuntamenti, Sitania. Musichina. Degli appuntamenti? Non l'avevo preparato. Che devo fare un balletto? No. Cantare non mi riesce tanto bene. Potrebbe cantare una 3, però. Sì, che cosa? Appuntamenti. Eccola. Aspettateci. Gli appuntamenti. Allora, care tutte, il coordinamento lesbiche romane e il collegamento lesbiche italiane, insieme alla libreria Zoran in Houston, vi invitano alla serata Passione, sostantivo femminile, viaggio intorno al cuore delle donne, percorso poetico da Sappho, Emily Dickinson e oltre, con testi tratti da La mia pelle è un cifrario, poesie erotiche di Monica Maggi, in programmazione venerdì 11 febbraio. Venerdì 11 febbraio, mi raccomando, venite, ore 20:30 al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B. Il programma è alle 20:30 cena di autofinanziamento per il Centro Femminista Separatista, alle 22 lettura di poesie erotiche con ospite Monica Maggi, voci recitanti e musica. Recita anche tu la poesia erotica preferita. È un invito a tutte voi a portare le vostre poesie erotiche e a leggercele. Sì. Invece vi volevo dire di un altro appuntamento, che è Francesca De Fazzi One Woman Show Big Mama alle 22 in vicolo San Francesco a Ripa 18 a Roma. E il telefono è 06 58 12 551. L'immancabile e sensuale ironia della blues woman made in Italy, che trova sempre più consensi a livello internazionale in uno show tutto da sola, con chitarra e dobro, dove l'energia scorre fluente, la passione è l'unica luce in grado di illuminare il cammino. Oltre alle sue composizioni, tra cui Madre, Francesca interpreta le sue canzoni preferite, dal blues più essenziale di Robert Johnson, Memphis Minnie, Bessie Smith e gli altri grandi che hanno accompagnato la sua crescita artistica, come Bonnie Raitt, Jimi Hendrix, Janis Joplin e John Lennon, tutti con la J. Sì. E invece il terzo appuntamento che vi proponiamo è di sabato 5 febbraio alle 8. L'una e le altre ci invitano a Who's Counting e proietteranno un film, Who's Counting appunto, genere bugie e globalizzazione di Terry Nash, di 90 minuti. Un video che racconta la vita e le analisi economiche di Marilyn Waring, da non mancare. E l'invito è a Spinaceto, dalla Pontina Superato del Raccordo, prima uscita a destra, e l'indirizzo è Largo Cannella 17, una traversa di Via Caduti della Resistenza. Sì, ci è arrivato un sms intanto, Tania, che ci chiede se la donna della locandina verrà alla serata. Ora, vogliamo svelare chi è, Tania? Tania, dillo che ti sei... No. Allora, chi indovina chi è la donna della locandina, le mandiamo un bacio in diretta. Fine trasmissione, oppure venite la serata, come vogliamo fare? Venite la serata, però c'è Luisa che sta a Catania. Luisa, vieni alla serata, sennò te lo diciamo solo a te. Comunque, la donna non credo che venga. No, è improbabile. È improbabile. Allora, ragazze, noi siamo sempre qui in diretta, 338-41-46-682, potete mandarci i vostri graditissimi sms, i trillini per la musica, evidentemente, però la musica stasera non è piaciuta, perché pochi trillini. Ah, sì, l'amore mio. Anche l'amore mio ha scritto. Ciao, nuvoletta. E invece, che altro volevo dire? Vania, Clessidra e Nora, che altro ci volete dire della vostra vita? Un po' parlarci di voi. Come nasce una scrittrice di racconti erotici lesbici? Frequenta? Una scrittrice? Sì, certo. Prova, riprova, riprova. Riprova, poi nasce. Nasce così? Nasce così. Ah, vedi? No, nasce così nel senso che io ho sempre scritto anche sì. favole per bambini e soprattutto canzoni. Ah, vedi? Testi di canzoni. Che non sono mai state rappresentate nelle nostre iniziative. C'è qualcuno che te le canta o te le suoni su? No. Ah. L'ultima che ho scritto è stata una canzone bellissima ed era la canzone di Giuni Russo a Sanremo nel 2003. Vedi? Ragazze, questo è uno scoop. No, non è, sì, però non ne parliamo. No, certo, di desiderio certo, femminile. Certo, ok. No, tra l'altro Vania è un'autrice che dovreste già conoscere perché ha fatto un altro libro qualche anno fa, forse tre anni fa. Sì, nel 2000-2001. 2000-2001, che è Le donne che ballano il tic-tac, ce l'abbiamo detto. Che non era, donne che ballano. Erano dei bei racconti romantici. Sì, però. Sì. Non adesso è passata all'erotico. Allora, se ci volete raccontare qualche vostra fantasia erotica, potete dircela in diretta allo 06491750, oppure se volete potete scrivercela e vi do il mio indirizzo email, il nostro, scusate, del CLR, indirizzo email che è contatti@clrbp, che sarebbe coordinamento lesbiche romane buonpastore.it. E così, se volete, le inoltriamo poi alle autrici, oppure comprate il libro, ci sono le mail, oppure se volete darne un indirizzo email per chi volesse scrivervi. In privato? Sì, ho detto, i nostri indirizzi email sono, vabbè, magari c'è pure qualcuno che non ha il libro, giustamente. Se lo dovrebbero comprare, comunque stefanam@libro.it, quello di Clessidra, il mio. Il mio è v.bennet@libero.it. Con due T. Chiariamo. Con due T. Invece di Nora è lina.sculture@libero.it. Ok, bene. E un altro messaggino di Tura che ci scrive: avete visto quanti sms stasera? Il risveglio dei sensi. Hai ragione, infatti quando si parla di sessualità lesbica, le lesbiche si svegliano. Allora, io manderei un altro brano e poi vi ricordo appunto che questo dovrebbe andare, sì. E vi ricordo sempre che venerdì 11 febbraio è una nostra iniziativa, va Passione. Sostantivo femminile, che è un titolo bellissimo che ha scelto per noi Monica Maggi, ospite sarà proprio Monica Maggi, e leggeremo poesie erotiche, quindi avremo questa cenetta a lume di candela, diciamo che è una cena aspettando Santa Valentina. Abbiamo preso non il ristorante piccolino, ma ci aspettiamo che venite numerose, quindi ditelo alle vostre amiche, nel salone saremo riscaldatissimo da noi e da veramente le stufe. No, perché... E dall'erotismo. Esatto. Chissà se verranno pure ospiti le nostre tre... Perché magari passano. Penso di sì. Portate pure i libri. Anche. Anche. Ottima idea. Thank you.